I lavori di domani di Anna Marino. Quali sono le professioni chiave dell'emergenza coronavirus che lo saranno anche in futuro? Partiamo dall'ingegnere in 3D, un'evoluzione della professione che si è sviluppata negli ultimi tempi, ma che la pandemia del Covid-19 ha evidenziato come sia sempre più indispensabile. Perché? Facciamo solo qualche esempio ormai diventato virale sui social. La maschera da sub di Decathlon si trasforma in un respiratore dopo le valvole stampate in 3D. E proprio in uno dei territori più colpiti della Lombardia dal coronavirus, Isinnova, che prima ha ingegnerizzato e poi stampato una valvola necessaria ai respiratori dell'ospedale di Chiari, e poi è nata la maschera da snorkeling trasformata in una maschera CPAP ospedaliera per terapia subintensiva in esaurimento negli ospedali italiani, e sul loro sito si possono trovare le istruzioni per altre aziende 3D italiane e straniere per replicarla dove serve. E grazie a un inventore che ha dato la maschera al nome di sua moglie Charlotte, ed è appunto un ingegnere 3D, Christian Fracassi, Innovation and Advanced Engineer, CEO presso Isinnova SRL. Io sono il titolare dell'azienda, sono un ingegnere ed architetto, ho un dottorato in ingegneria di materiali e un master in economia e sviluppo delle idee di business. Al momento gestisco la società, in realtà ne abbiamo 4, e coordino tutti i miei ingegneri e le figure che con me lavorano nella ricerca e sviluppo di nuovi progetti innovativi. Tu che cosa fai? Che tipo di lavoro è il tuo ingegnere in 3D? Noi abbiamo una società di ingegneria, siamo un centro di ricerca, siamo più di 14 persone e ci occupiamo di sviluppare idee nuove tutti i giorni. Quindi è un po' il mio mestiere. La particolarità in realtà è che ho dovuto farlo in 24 ore e non in settimane come di solito avviene. Tutto è partito da una telefonata arrivata dalla direttrice del giornale di Brescia, Nunzia Vallini, che mi ha coinvolto e mi ha detto: l'ospedale di Chiari ha bisogno di una mano, sta finendo delle valvole, non riesce più a trovarle sul mercato, riesce ad aiutarci a stampare dei pezzi con la stampante 3D? Ovviamente abbiamo detto sì, e da lì è nato un po' il tutto. Da lì, dalla telefonata, che cosa è successo? Siamo stati coinvolti prima in un progetto che è quello di realizzare valvole Venturi attraverso la stampante tridimensionale. Ne abbiamo realizzate 100, le abbiamo consegnate all'ospedale e le sta usando sui pazienti Covid. Come l'avete progettato? Abbiamo recuperato il primo pezzo in ospedale, un pezzo già utilizzato, quindi non più riutilizzabile. L'abbiamo ridisegnato da zero, l'abbiamo ingegnerizzato in 3D. Abbiamo realizzato i primi 4 pezzi. Un medico li ha testati prima su un paziente sano, un infermiere e uno su di noi. Una volta che ha avuto l'ok e ha visto che funzionava, ci ha quindi chiesto il giorno dopo: portatemi 100 pezzi perché ne ho bisogno in maniera estrema. Siamo quindi attivati attraverso il gruppo Lonati, che è una stampante, abbiamo attivate tutte per essere il più veloci possibile, e noi il giorno dopo eravamo in ospedale a fare la consegna di 100 pezzi complessivi. Come avete contattato Decathlon? Qualche giorno dopo che è uscito il primo articolo, un primario, un ex primario in pensione, ha avuto l'idea di utilizzare una maschera da snorkeling, è venuto in Isinnova, è venuto qui da noi, ci ha fatto una lezione di anatomia su come funzionano i polmoni, gli alveoli e la polmonite, e noi abbiamo progettato la valvola chiamata valvola Charlotte, che sostituita al boccaglio di una classica maschera Total Face permette di agganciare all'interno l'ossigeno e le valvole necessarie per la respirazione ventilata dei pazienti. Meno di 10 ore per la maschera da snorkeling. È stata poi testata per 3 giorni prima di diffondere la notizia, diffondere i file. Quando abbiamo avuto esito positivo dagli ospedali, allora abbiamo fatto sì che qualunque ospedale al mondo, non solo in Italia, perché stiamo scrivendo tantissimo dall'estero, possa utilizzare questa soluzione in maniera libera e gratuita per salvare vite umane. Quanto tempo ci avete messo dalla telefonata che è arrivata fino alla realizzazione e all'utilizzo? Sì, la prima telefonata dal giornale di Brescia è arrivata venerdì alle 9:30, e la consegna di 100 pezzi è stata fatta domenica mattina. La Protezione Civile ci ha avvisato di aver acquistato le prime 500 maschere per la provincia di Brescia, e quindi stiamo realizzando le prime 500 valvole Charlotte e Dave attraverso la stampa 3D. So però di per certo che esiste un gruppo che si chiama Gruppo Oldrati, che si è attivato in maniera immediata e ha già fatto partire la realizzazione di uno stampo per lo stampaggio di iniezione. Questo permetterebbe di accelerare di molto la realizzazione dei pezzi, perché ne verrebbe stampato uno ogni 15 secondi circa, e oltretutto sarebbero stampati con materiale biomedicale, e quindi con tutte le caratteristiche e le indicazioni del caso. Si chiama Charlotte. Il nome da che cosa è derivato? Avete dato un nuovo nome? La valvola Charlotte arriva da mia moglie si chiama Carlotta, dato che è una settimana che non la vedo, mi sembrava corretto in qualche modo darle onore. Voi siete in quarantena? Ormai sì, perché io ho passato più reparti Covid di vari ospedali e quindi preferisco rimanere distante in modo da evitare contagi o di contaminare qualcuno. Vi sentite in una situazione di guerra? Assolutamente sì, io sto guardando al momento fuori dalla mia finestra dell'ufficio, la via di solito trafficata è deserta, è completamente deserta. Un appello a tutti quelli che da nord a sud possono utilizzare, dove trovate le informazioni? Tutte le informazioni si trovano sul sito di Isinnova, alla pagina Covid, oppure su YouTube digitando Charlotte Valve. Quale tipo di formazione ingegneristica hanno, diciamo, nel tuo team in generale? Allora, all'interno del mio team abbiamo ingegneri meccanici, elettronici, un informatico, edili, dei materiali, un gestionale, dei grafici, quindi siamo ben variegati. Che cosa consigli a chi vuole fare la tua strada? Da dove deve partire e dove deve formarsi? Di partire dal bisogno, quello è il primo punto, capire di cosa manca, cosa serve e utilizzare la testa e poi le mani per aiutare chi è in difficoltà. Il tuo è un lavoro gettonato, quanto lavoravi prima e quanto lavori adesso, quanto guadagnavi prima e ovviamente anche comunque in tempi di coronavirus, di emergenza sanitaria, comunque è un modo per andare avanti e anche far lavorare l'azienda. Stiamo lavorando gratuitamente e quindi a livello economico diciamo che la situazione non è delle migliori. Ovviamente abbiamo delle riserve e quindi stiamo utilizzando quelle. L'obiettivo questo mese non è guadagnare ma aiutare gente. Certo, e normalmente il range insomma del tuo mestiere, del tuo lavoro comunque più gettonato rispetto a diciamo un'ingegneria tradizionale. Queste emergenze faranno capire quanto è necessario il vostro contributo, ecco, quindi diventerà comunque un lavoro gettonato anche domani e voi vi state aggiornando anche grazie alle nuove tecnologie, domani sarà gettonato perché in questa emergenza si è capito che è utile. Assolutamente sì, la cosa oltretutto più utile è quello di essere flessibili, quindi potersi adattare agli eventi come stiamo facendo noi in questo momento. Questo tipo di professione, questo tipo di innovazioni e di cambiamento insomma della produzione servirà forse anche in futuro, in fondo è cambiato il modo di produrre, è cambiato il modo di lavorare, questi sono anche i lavori di domani. Assolutamente, è un lavoro particolare, quasi nuovo e ha permesso e ha fatto capire al mondo che la stampa 3D può essere velocissima e aiutare vite quando ce n'è bisogno.